20. Immobile marmoreo, il gerarca Enoch stava seduto davanti ai microfoni ormai da 22 minuti. In questo tempo non aveva ancora detto una parola, ma nessuno dei numerosi giornalisti osava obiettare qualcosa né andarsene, né tantomeno tossicchiare. Si scambiavano però occhiate interdette. Il gerarca aveva occhiali molto spessi, dietro i quali si intuiva che gli occhi erano ben aperti, quindi non dormiva. Un lieve sobbollimento della carotide dimostrava che respirava regolarmente, quindi non era morto. C'era poi un particolare decisivo. Osservando attentamente la sua mano destra, abbandonata sopra alcuni fogli di appunti, si notava che due dita, precisamente l'indice e il medio, erano percorse a tratti da piccoli spasmi, i quali, se non si potevano ancora chiamare tamburellamento, suggerivano comunque l'idea che il gerarca stesse pensando. Passarono altri 12 minuti, per un totale di 34. Un giornalista che era da tempo proteso in avanti col microfono in mano ebbe un crampo e il microfono cadde. Fortunatamente era foderato di gomma piuma antivibrazioni e non fece molto rumore. Il giornalista si chinò a raccoglierlo. Parve più che gli occhi del gerarca seguissero con severità questa operazione. Sicuramente alzò un sopracciglio. L'eccitazione pervase la sala. Si eressero le penne e scattarono i registratori. «Sta per succedere qualcosa di grosso», telefonò un redattore al giornale. Purtroppo, dopo alcuni istanti, il sopracciglio tornò al livello abituale. Seguirono altri 10 immobili, silenziosi minuti. Una mosca entrò nella stanza e sorvolò stupita quel museo di cere. Il poeta di corte, Alonso Garbo, scrisse di getto sul taccuino: «Quale villaggio, sotto rupe nevosa, ne teme ogni vibrar e ogni rumore. Tal la plebaglia di fronte allo Signore stavasi intimorita e silenziosa». Dopo un'ora e 20 minuti, il labbro inferiore del gerarca iniziò a separarsi dal labbro superiore in modo lento, ma inequivocabile, come dimostravano le foto in sequenza scattate dai fotografi. Il gerarca stava quindi per apprestarsi a parlare, o a sbadigliare, comunque a uscire dal letargo. Qual orso che fuor di suo rifugio lo capo mena che d'inverno scose, incerto arruffa le membra pelose che di nuovo dormir gli punge indugio. Dopo un'ora e 46 la bocca del gerarca era del tutto aperta ed erano visibili le tonsille, la faringe e le otturazioni del secondo e terzo molare. Dopodiché così parlò: «In merito ai gravi fatti di ieri, tutto è stato chiarito. Il compositore Baldini è stato vittima di un errore nel manovrare un circuito laser, in quanto al dottor Atarva ogni voce sulla sua scomparsa è del tutto infondata. Egli si trova in vacanza in località Marina, da cui ci ha spedito una videocassetta. Qual la folgore che lo nembo squarcia, tale il suo detto in dubbiosa assemblea, fe luce d'ogni voce ria e marcia, e di calunnia sciolse la canea». Seguirono altri 10 minuti di silenzio. Nessuno si azzardava a fare domande, finché, timidamente, un giornalista esordiente disse: «Essendo Atarva un compositore di realtà, non potrebbe, sì, insomma, non potrebbe avere composto una videocassetta falsa?» Il gerarca rise. Tutti risero. Il gerarca rise più forte. Tutti risero più forte. Il gerarca scosse la testa. Tutti lo imitarono. Il gerarca diede un pugno sul tavolo. Tutti diedero un pugno nella schiena di quello davanti. Quelli davanti se lo diedero sul petto. Poi il gerarca disse: «No!» Una doccia gelata, piovendo all'improvviso dal soffitto, segnalò che la conferenza stampa era chiusa. Tutti i giornalisti tornarono alle rispettive sedi, tranne uno.